non so cucinare. Se te ne vai, chi mi darà da mangiare? Le tagliatelle con i frutti di mare. La la la la la la, amore, non te ne andare, che non so lavare. Se te ne vai, chi laverà i miei panni? Con Coccolino, Dixon e quegli altri. La la la la la la. Amore, non te ne andare, che non so stirare. Se te ne vai, chi stirerà i miei panni? Con la seta stiro che ti ho regalato. La na, la na, la na. Amore, non te ne andare, che io sto male al solo pensiero di dover lavare, stirare, cucinare i frutti di mare. Da da da da da da. Amore, non te ne andare, pur io devo mangiare. Se te ne vai, chi sta in cucina? Oh brutta sguattera, zitta e cammina. Da da. Ne puoi andare, guarda che te se te ne vai, per me non esisti più. Se chiudi quella porta, addio per sempre. Ma sai quanto cazzo me ne frega? Amore, te ne sei andata, ma porca puttana, sono nella merda. Ora che non ho un'altra donna che mi faccia da serva. Che andiamo avanti psicologicamente, te però, e capito? Tutte le donne di questa terra, ricordatevi chi ha fatto la guerra. Voi no di certo, perché siete donne. Da da, da da, da da. E per tutte le donne di questa terra, ricordatevi chi ha fatto la guerra. Voi no di certo, perché siete donne. Da da da da da. Certo, perché siete donne. Voi no di certo, perché siete donne. Voi no di certo, perché siete donne. La